Oh mia bella Madonnina, Madonnina, Cappa, dai, tu scatti in piedi come se come i francesi quando sentono la Marsigliese. Dai, non essere così leghista. Madonnina, sì, piscinina. Poi non parli nemmeno il dialetto. Tu sei il tipico milanese, così liofilizzato degli anni di adesso. Se vive la vita, sta mai con mani in mano, preferibilmente io le man me le metto nei marron. Chiedo asilo. A ben tornà a Chiedo Asilo. Un saluto a Kappa. No, ma Kappa, scusa. E, poi, e un saluto al drago. Dal drago. Siamo mica Radio Padania, dai. Dal drago c'era quello. Siamo Radio 24. Giambellino faceva. Sì, lo chiamava Ruttigino, eh sì. Vabbè. Allora, caro Kappa, Sant'Ambrogio, noi siamo qui a lavorare, va bene? Sei contento? Ma non eri tanto contento, la scorsa settimana minga tanto, speravi di fare il long weekend, è il weekend lung, come weekend si dice? Weekend non è tanto weekend, milanese. Sembra una parola un po' meno. È il fin della settimana, è il fin della settimana. Vabbè, allora noi siamo qui invece a, a riflettere su delle cose che fanno riflettere, quindi riflettiamo sulle cose che fanno riflettere. Tipo il mondo si è trasformato in questa enorme stanza dei giochi, solo che tutti giocano lo stesso gioco, cioè? E cioè lo smartphone. Ah. Si fa tutto con quegli aggeggi. Ora è persino venuto fuori il filone della medicina fai da te via app. Tito, stai bravo. Sì, misurazione della glicemia, misurazione della pressione, del battito cardiaco. Tutto grazie alle app degli smartphone, hai capito? Cioè, a che cosa serve studiare medicina se poi c'è una app che fa il tuo lavoro a gratis? Scusa. Non remare contro, drago. Scusa. Sei conservatore. No. Il mondo cambia, no? In continuazione, ogni giorno, ogni secondo, anche adesso. Guarda, cambia. Sta cambiando. Vedo, guarda, vedo. Insomma, a volte cambia in meglio anche, sì, no? Vabbè, scusa, ma c'è perfino eye headache che serve a individuare i motivi e i rimedi della tua emicrania. Cioè tu headache, scrivi, cioè, forse you headache sarebbe la tua. No, eye headache. Analizza i sintomi e la durata degli attacchi. Tu devi mettere un po' di dati così e poi lui ti dà il responso. È fantastico. Solo che il responso, se eye headache fosse sincero, dovrebbe essere che la causa delle emicranie è lo stesso smartphone che usi per consultare eye headache. Ma sei un po' complicato. Eh sì, perché i telefonini ti informano sulla salute, ma mentre ti informano ti fanno ammalare. Beh, questo chi lo dice? Ma chi lo dice? Gli scienziati che non possono parlare per via dei motivi economici. Comunque dovrebbe esserci un'app che ti mostra in tempo reale i danni al cervello provocati dallo smartphone in cui l'app è contenuta. Quella sì che sarebbe un'app utile, cosa dici? Sei impazzito. Perché cosa ho detto? Ma non puoi parlare male di telefonia male, cioè, in radio, cioè vuol dire la telefonia paga gli editori per fare. E cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che poi dopo non facciamo più la trasmissione, ma, vabbè, ma scusa, ma lo sentiamo dire da 15 anni che stare col cellulare attaccato all'orecchio fa male. Vabbè, non è ma che è meglio se non lo dici è meglio, capito? Meglio, che poi tra l'altro nessuno dice anche che gli auricolari funzionano malissimo. Quindi sono. Quello è vero. Quindi. Kappa, c'è anche la app per controllare il feto minuto per minuto. Ma tutto il feto minuto per minuto. Com'è che era la sigla? Tutto il feto minuto per minuto. Ma come? C'è una specie di ecografia via telefonino? Se tu applichi una specie di sensore sulla pancia della mamma, sì, applichi quell'altra, dall'altra parte ci sarà un mini jack che entra dentro mini jack. Ma cosa ne sai tu di lo smartphone? Avanti, sì. E in quel modo puoi avere tutte, puoi anche archiviare tutte le informazioni che arrivano dal feto e portarle al ginecologo quando la mamma fa la visita. Ma no? Sai che quando tu parli di tecnologia sembri tipo neanche mia mamma, mia nonna, mi ricordo quando tipo parlava del videoregistratore, quel tipo di conoscenza dell'oggetto. Lei usava anche il termine presa SCART, no? Vabbè, diceva quella lì con tutti i dentini. Ma neanche, sapeva che ci fosse una presa. E allora, dai, allora, così comunque, l'app, molto... l'app. Vabbè, non se devi hai poi... l'app non fai più le visite del dottore. Se giusto, hai l'app ti evita quella roba lì. Anche la gravidanza non la fai mica più in clinica. Ma come no? C'è l'app che assiste la puerpera. C'è l'app? Certo. Tu ti fideresti? Vabbè, ma io sono mica una puerta. Eh beh, ma se lo fossi. No, lo so, se mi fa risparmiare tempo e fatica, ma, sì, ma stai a casa, no? Col telefono sulla pancia. Però dai, diciamo una cosa chiara: non è possibile sostituire gli esseri umani con delle app. Le app non esistono. Dipende è una dimensione, dagli esseri umani, dai, è una dimensione di simulazione, capo, o emulazione. Ormai non si capisce più se simulano o emulano la vita normale. Ma, cosa c'è? Ma non c'è differenza. Scusa, facciamo quest'altro esempio. Condurresti Chiedo Asilo con una app al posto mio? Certo che sì. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Sfera. Ecco, e un saluto da K. Allora, Sfera, come va? Bene, grazie. E tu? Molto bene, allora. Cominciamo con un tema che riguarda la nostra sfera emotiva, ossia lo sforzo sfinterico sferoidale. Ma cosa stai... Ma dobbiamo parlare di infantilismo, ma che app sei? Dai, bambini, Natale, regali, quelle robe lì. Ormai sono partito per la tangente perché sono una app e le app non sentono ragioni. Sfera, spintieri, sfera. Sì, se togli la batteria, le app. E ora, bambini, ricreazione. Bambino Alberto tomba. La tomba, dai. Sai, c'è la faccia un po' tombale, ti vedo un po' giù, cosa succede? Sono preoccupatissimo. Oh, ma per cosa? Qui non si può stare tranquilli, stavolta qui arriva la mazzata finale. Ancora, ma dai, ci stiamo avvicinando al Natale, ti sembra il caso... Non ti sembra il caso di lasciare un po' perdere le polemiche, almeno adesso? Stai tranquillo, bambino Alberto. Vabbè, secondo voi, cioè, non vi viene in mente che io preferirei pensare a regali, a Natale, alle vacanze? Invece di star qua a menarmela, ma quando è troppo è troppo. Cosa succede? Dai, sentiamo, avanti. Allora, si tratta, e non ridete, dell'ennesimo caso di discriminazione. No, ridete nel senso che non mi date retta. Che stavolta poi va a toccare uno dei pilastri del sistema scolastico. I pilastri, tipo? La gita scolastica. Cosa è successo? Mi hanno negato la settimana bianca solo perché sono un po' sovrappeso. Dicono che così non mi godrei la gita e che la rovinerei anche agli altri. Vabbè, se bisogna camminare. Ma mi sembra una cosa normale. Se non è discriminazione razziale questa. Ma magari ti fanno un favore, la settimana bianca è impegnativa, fisicamente. Giusto. Cioè, tu hai una forma non proprio smagliante, poi sei pigro. Anzi cosa? Cosa, insomma. La mia scarsa forma fisica è una leggenda metropolitana. Sì. E l'avete messa in giro a voi. Gira perché è femminile. Sì. Che gusto ci trovate a mortificare un bambino? Con tutte queste menzogne, così incrinate la mia autostima, no? Incrinate. Allora, volete farmi piangere? Ma no, ma dove le dici? No, perché questa qui poi sarebbe la vostra reazione davanti a un'ingiustizia. Ma non va bene. Ma io non mi faccio mica condizionare. Ma la gita, vabbè. Ma e comunque la gita. Io voglio andare in gita insieme agli altri. Sì. Tutti gli altri bambini vanno, io no. Non voglio essere escluso, voglio essere come gli altri. Però dai, noi non volevamo offenderti. Dai, no. Adesso vediamo di fare il possibile e andiamo a parlare con Suor Ventona, perché sì. Suor però Ventona. Scusa, anche tu, fai un po' una dieta magari. Ma quale dieta? La dieta, guarda lì. Allora, non ci siamo capiti, io non faccio nessuna dieta. E allora non vai in gita, così. E poi, scusate, chi è che decide se io sono in forma o no? Non lo so, c'è... Ma allora io, vale l'autocertificazione. No, c'è la bilancia. Allora scusate, io prendo, vado al notaio, faccio una dichiarazione che sono in forma fisica, smagliante, mi faccio autenticare la firma dal notaio e poi voglio vedere chi si promette di escludermi. Vado lì con la carta, col documento. Ecco sta storia inventata che sono sovrappeso. Tra l'altro non è nemmeno l'unico asilo che ha questa politica. Ormai ho letto sui giornali che è una cosa normale. Quando c'è un bambino obeso in gita è un problema, perché poi magari si fa male, si stanca, gli viene un infarto. Cioè, non è mica una cosa che fanno per te, la fanno per il bene comune. Ma perché lui ha detto obesi e poi se la fanno dappertutto, vuol dire che io c'avevo ragione, che poi anche qui siamo in due bambini, perché c'è anche Gildo. Ma come, anche Gildo è obeso? Ma... Gildo è una roba. Ah sì. È Gildo impressionante. È obeso. Ma come obeso? Ah sì. Non lo sapevo. Ma vedi, ma lui scarica su Gildo le sue frustrazioni, tipico dell'amico immaginario. Senti che voce gli viene. Non è così discreto, perché è l'imbarazzo, perché è obeso. Obeso! Quindi io non è che posso dire, Gildo è escluso la settimana bianca e io vado. Io non vado, fingo anch'io di essere obeso. Per solidarietà. Fingo anch'io di essere obeso. Faccio la roba per bene. Allora, mettetevi d'accordo voi due, insomma. Mi sono rimpinzato di proteine per un mese e mezzo. Come Robert De Niro per fare tutto lo scatenato, no? Così poi a un certo punto, quando è stato l'ora della gita, Gildo lo sapevo già che è obeso, gli altri sono tutto ok. Ma cos'è che vedo là? E io ero al banco che non ci stavo più, con un panzone gigantesco. E no, Alberto, sì, no, tu non puoi venire. Ma come? Ho fatto finta di prendermela. Ma l'ho fatto per Gildo, no? Ma quindi non sei arrabbiato? E no, non sono neanche obeso. Voglio uno smartphone questo Natale. Vabbè, K, non puoi nemmeno esprimere questi tuoi desideri. Regalatemi uno smartphone. Sembra che fai pubblicità a un segmento questo di mercato. Questo Natale. Oltretutto un segmento di mercato sensibile, no? Perché io uso lo smartphone, mi piacciono le app. Io voglio fare i giochini tipo Angry. Angry Birds. Sì, ma devi avere... Ma c'ho un telefonino vecchio come il cucco e non va, non funziona. Non riceve nemmeno gli MMS. Io voglio uno va bene, mandate uno smartphone a K, chiedo asilo, radio24.it. Basta anche una fotografia, così almeno fa il bravo. Io voglio uno smartphone. A domani.